Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, fermo restando che avremo anche, come sempre, la poco invidiabile classifica del programma. Ed è oggi, devo dire, particolarmente depressiva per alcuni elementi. I temi di questa giornata economico-finanziaria, dicevo, oggi ci sono dei dati non così confortanti sull'andamento economico sia degli Stati Uniti che di Francia e Gran Bretagna, i dati sul primo trimestre dell'anno. Ne parleremo nella seconda ora per fare il punto anche della settimana a cavallo tra economia e politica con l'uccellaccio Giulio Sapelli, settimana chiaramente connotata dal primo turno elettorale francese, in attesa che poi fra poco più di una settimana arrivi il ballottaggio, ma anche dalle posizioni di Trump in tema fiscale, quindi la riforma fiscale annunciata da Trump, vedremo se riuscirà a portarla a compimento, perché l'opposizione al Congresso, come abbiamo ricordato in questi giorni, è abbastanza forte, ma soprattutto cercheremo di capire anche l'efficacia di questa azione, che si basa, come abbiamo spiegato molte volte, sulla cosiddetta curva di Laffer, cioè l'idea che riducendo la pressione fiscale aumenti la crescita economica e quindi la parte di introito fiscale che non hai, attraverso, a cui rinuncia attraverso la tassazione, poi ti rientra dalla finestra con una crescita maggiore del PIL in questione. Va detto, lo dico subito, che non vi è mai stata nessuna prova scientifica, diciamo statistico-scientifica, della curva di Laffer. Per quello che riguarda la borsa, invece, Milano guadagna oggi lo 0,32%, è una delle poche a guadagnare in Europa. Parigi infatti è invariata, leggermente negativa, Francoforte è invariata, Londra meno 0,30%, Dow Jones meno 0,10%. Tra i titoli sono soprattutto oggi le banche: Mediobanca più 3,80, Biperbanca più 3,5, Unipol più 3,16, cito anche il Banco BPM più 1%. Di nuovo forte invece sia ST Microelectronics più 3,14%, sia Case New Holland Industrial CNH più 3,20%. Sul fronte opposto cede Yux Net-a-Porter non tantissimo, l'1,60%, Campari l'1,20, ricordati l'1%, Enel meno 0,90, A2A meno 0,80%. Chi me lo chiede già al 349 238 6666, che come sempre è il numero per SMS e WhatsApp. Poi ricordo che c'è anche la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Dicevo, su fronte borsistico, per carità, e anche avremo un approfondimento. Ci sarà anche, per rispondere alle domande, la startup che portiamo come, così, come elemento per rincuorarci dopo una classifica oggi quanto mai depressiva. Lo dico perché si ha la sensazione che in questo paese, poi per carità noi prendiamo i casi peggiori, ricordo sempre che la pubblica amministrazione non è solo quella che raccontiamo noi con i casi peggiori, ma c'è anche tanta buona pubblica amministrazione in questo paese. Però quando tornano e ritornano, alle volte ritornano, casi che speravamo fossero diventati casi di malcostume, oggettivamente un po' di depressione viene anche a noi. Però partiamo come sempre rapidamente con le notizie in breve. E partiamo proprio dai dati di carattere macroeconomico a cui facevo riferimento. Partiamo dagli Stati Uniti, dove il PIL nel primo trimestre dell'anno è cresciuto ma poco, soprattutto ha avuto una crescita che è la più bassa da 3 anni a questa parte. più 0,7%. Teniamo conto che nel trimestre precedente, quindi l'ultimo trimestre del 2016, aveva fatto più 2,1%. Ha sorpreso tutti, anche perché dopo le elezioni di Trump sappiamo che era cresciuta la fiducia degli americani, era cresciuta molto anche la borsa, erano aumentate anche esportazioni, investimenti imprenditoriali. Che cosa è successo? Hanno frenato negli Stati Uniti soprattutto i consumi, più 0,3% nel primo trimestre, è il dato più basso dal 2009. Anche qui il raffronto è con l'ultimo trimestre del 2016, quando i consumi americani erano cresciuti del 3,5%, quindi più di 10 volte tanto. E poi anche c'è stato un aumento dell'inflazione che ha eroso il potere di acquisto e una decelerazione delle spese statali. Nonostante questi dati non esaltanti, la borsa statunitense continua a viaggiare. Oggi c'è un leggero rialzo, meno 0,17% sui massimi, soprattutto il Nasdaq, e questo perché la borsa guarda, come spesso fa, ai conti dei grandi e ai conti soprattutto record diffusi dai colossi di internet, Google e Amazon in primis, che stanno soppiantando, come raccontiamo da mesi, anche la classifica delle ricchezze, della gerarchia dei patrimoni, della ricchezza rispetto ai gruppi tradizionali. Su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24 sulle 24 ore, trasmessi anche su RDS, oggi a firma del vice direttore Alessandro Platerotti. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alessandro Platerotti. Più che Silicon Valley, farebbero meglio a chiamarla Filigran Valley, perché se chip e software hanno reso famosa la valle californiana dell'high tech, e ora la concentrazione di miliardi guadagnati in pochi anni dai nuovi signori della new economy a caratterizzare il più avanzato e invidiato distretto industriale del mondo. Il recente rally del Nasdaq ha infatti proiettato ai vertici della ricchezza mondiale i tre nuovi cavalieri del West, nuova generazione della web economy: Jeff Bezos di Amazon, Larry Page e Sergey Brin di Google. Il fenomeno più impressionante è quello di Jeff Bezos. La chiusura di ieri valeva oltre 82 miliardi di dollari il suo patrimonio personale, 5 miliardi in meno di Bill Gates, che da 10 anni guida la classifica dei paperoni del mondo con un patrimonio personale di 87 miliardi. Mentre la fortuna di Gates risente del calo di ruolo della Microsoft nella nuova economia, quella di Bezos sembra inarrestabile. In soli 5 anni, grazie al boom di Amazon e del consegna a domicilio, il suo patrimonio personale è aumentato di 65 miliardi di dollari, una progressione a dir poco impressionante rispetto a qualunque altra società del mondo. Dopo Gates e Bezos, il terzo e il quarto posto è stato conquistato invece da Page e Brin, la coppia di Google, la cui ricchezza ammonta ora a 44,7 e 43,7 miliardi ciascuno. Che dire, che proprio i paperoni che invocano le tasse sui computer per equilibrare le disuguaglianze sono i primi che dovrebbero proprio aumentarsi le tasse per ridurre quelle disuguaglianze. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Altre notizie in breve, continuiamo con il dato macroeconomico, perché da un lato in Gran Bretagna la Royal Bank of Scotland ha chiuso il primo trimestre con un utile decisamente superiore alle attese, e quindi dopo il salvataggio, fu salvata dal denaro pubblico britannico Royal Bank of Scotland, e dopo 9 anni di perdite sostanzialmente costanti torna a vedere l'utile nei primi 3 mesi dell'anno. Ma restando in Gran Bretagna, invece, al di là del Consiglio europeo straordinario di domani, in cui con ogni probabilità Angela Merkel ribadirà una linea dura dell'Europa sulla Brexit, cioè la Gran Bretagna non potrà ottenere nessun vantaggio da questa Brexit, l'ha già detto, ha detto insomma che sicuramente non potrà avere condizioni di vantaggio rispetto ai paesi che sono nell'Unione Europea. Dicevo, al di là di questo, c'è un dato non bello per la Gran Bretagna sull'economia. Nei primi 3 mesi dell'anno il PIL britannico ha fatto più 0,3% contro una media dello 0,7% negli ultimi 3 mesi del 2016. È l'aumento più modesto dal primo trimestre del 2016 e secondo i dati ufficiali E sullo sfondo di questo rallentamento c'è l'avvio della transizione del paese verso la Brexit, quindi l'uscita dell'Unione Europea. Vedremo se poi questo rallentamento economico britannico verrà confermato oppure se è stato una tantum solo nei primi tre mesi dell'anno. Anche la Francia, visto che si va a elezioni, visto che è sotto elezioni, si va al secondo turno, il tasso di crescita del PIL è rallentato, più 0,3% contro lo 0,5% del trimestre precedente, stabile l'inflazione all'1,4%. Chiudiamo con i dati economici di carattere europeo, con l'Eurobarometro che misura la fiducia dei cittadini europei nell'Unione Europea. È aumentata del 7% rispetto al 2016, per cui a livello europeo il 57% degli intervistati ritiene essere ancora positivo far parte dell'Unione Europea. E tra l'altro era un dato molto sotto il 50% rispetto alla rilevazione dell'anno scorso, e anche un più 4% rispetto a settembre del 2016. Secondo però una larga maggioranza degli intervistati, nel caso specifico in Italia, dove il dato è in linea con quello europeo, 57% è ancora a favore della permanenza nell'Unione Europea. Dicevo, secondo la maggior parte degli intervistati italiani ci sarebbe bisogno di un maggiore intervento dell'Unione Europea su migrazione per l'80%, politica di sicurezza e difesa 74%, politica economica 70%, agricoltura 65% e politica industriale 64%. Infine l'inflazione a livello europeo e poi a livello anche italiano torna a salire ad aprile all'1,9%, dovuta però soprattutto all'energia, come raccontavamo ieri nell'analizzare le parole di Mario Draghi, per cui la BCE non vede ancora l'inflazione buona, vede un'inflazione che è cresciuta ma soprattutto per via dei prezzi dell'energia, che fanno più 7,5%, e i servizi fanno più 1,8%, alimentari, alcol e tabacchi invece sono tutti in calo, meno 1,5%, e sono in calo dall'1,8% all'1,5%, e invece gli altri beni industriali sono stabili. Quindi è un'inflazione che deriva in stragrande maggioranza dei prezzi dell'energia, inflazione importata come spiegavamo ieri. Anche in Italia, anche l'Italia si muove nello stesso solco. Ad aprile l'inflazione ha fatto l'1,8%, è il massimo da 4 anni, ma non è dovuto anche qui a un aumento dei consumi che porta a una tensione sui prezzi, quindi un'inflazione positiva, è dovuto semplicemente al rincaro dei prezzi di luce, gas e trasporti, quindi di nuovo elementi esterni ai consumi, tant'è che l'inflazione, l'andamento del carrello della spesa si attesta sullo stesso livello dell'inflazione, 1,8%, quindi ha frenato l'andamento dei prezzi dei beni a maggior consumo, che chiamiamo appunto i prezzi del carrello della spesa. Restiamo in Italia. La Guardia di Finanza di Milano ha accertato una presunta evasione fiscale da parte di Amazon per circa 130 milioni di euro nell'inchiesta della Procura milanese aperta ormai più di un anno fa. Quando si era saputo che un manager della filiale lussemburghese era finito nel registro degli indagati. Per quello che riguarda invece le banche italiane, la Banca d'Italia fa notare che sono in calo le sofferenze bancarie e si stanno riducendo i flussi di nuove sofferenze bancarie, cioè crediti che non riescono più a rientrare, e i crediti deteriorati al netto delle rettifiche sono scesi del 9% a 173 miliardi e i lordi a 349 miliardi. Per quello che riguarda le banche, hanno anche ridotto la loro esposizione in media in titoli di Stato del 7,7%, sono comunque 340 miliardi di euro in pancia, in portafoglio alle banche di titoli di Stato italiani, in pancia alle banche italiane, 340 miliardi, no, lo dico quando mi si racconta che si può uscire tranquillamente dall'euro, nessuno mi spiega mai cosa capiterebbe per esempio ai debiti delle imprese italiane, il 25% sono in mano estera e denominati in euro, in mano estera, scusatemi, e poi i 340 miliardi di titoli di Stato in euro delle banche italiane. Ma andando sul tema banche, oggi si sono tenute anche le assemblee della Popolare di Vicenza e di Veneto Banca, hanno approvato il bilancio 2016, per la Pop Vicenza ha quindi ratificato una perdita di 1,9 miliardi, il numero uno Viola ha detto che la fuoriuscita dei depositi da qualche settimana si è arrestata e stanno assistendo a un lento e graduale recupero. E poi sotto il profilo del personale aggiunto Viola è prevista una significativa riduzione alla Popolare di Vicenza. E quanto al Fondo Atlante, che è l'azionista di riferimento, perché l'aumento di capitale non l'ha sottoscritto praticamente nessuno sia su Veneto che su Pop Vicenza, Alessandro De Nicola, rappresentante del Fondo Atlante, intervenuto all'assemblea dei soci della Pop Vicenza, ha detto: è molto probabile che Atlante a breve non sarà più azionista di riferimento di queste banche. E poi invece Atlante ha votato contro, e quindi nulla si è fatto sull'ipotesi di avere un'azione di responsabilità contro gli ex amministratori delegati, amministratore delegato della Popolare di Vicenza nell'era post Zonin, mi riferisco a Francesco Iorio. Nulla è emerso, quindi non sussistono elementi per procedere nei suoi confronti. Poi l'Alitalia, a questo punto anche oggi c'è, l'Alitalia ci dà la sua cronaca quotidiana, e su questo devo dire che ci sono stati altri interventi. Allora apriamo una brevissima pagina su Alitalia prima di andare direttamente alla nostra poco invidiabile classifica. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Allora, e il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda, benvenuta la proposta di Renzi, la valuteremo. Così ha risposto appunto Calenda a chi gli chiedeva se sentisse oscurato dall'annuncio dell'ex presidente del Consiglio che entro il 15 maggio il PD avanzerà una sua proposta sull'Italia. Ha detto Calenda: secondo me noi abbiamo bisogno di ogni contributo di idee, qui l'unica cosa da fare è un lavoro serio su un'azienda importante, il resto, le questioni personali stanno fuori, non esistono. Però poi Calenda è tornato sul tema della nazionalizzazione, no, ha detto, ha ribadito Calenda su Alitalia, no alla nazionalizzazione e i costi per i contribuenti devono essere ridotti al minimo. Nel frattempo nel mondo delle compagnie aeree veniamo a sapere che Lufthansa sarebbe, che non è interessata all'Italia, così ha detto ieri, è invece interessata alla compagnia in crisi Air Berlin, e quindi che è di Etihad, che è a sua volta anche l'azionista di maggioranza di Alitalia, è la low cost tedesca Air Berlin, e secondo quanto riferiscono alcuni giornali tedeschi i vertici di Lufthansa avrebbero chiesto di incontrare i vertici di Etihad il prima possibile, anche perché Etihad vorrebbe disfarsi il più velocemente possibile della sua quota, che è del 30% in Air Berlin. Di nuovo invece le Ferrovie dello Stato, per voce dell'amministratore delegato Renato Mazzoncini, escludono un coinvolgimento in Alitalia. Non abbiamo la forza di fare tutto, visto che sono già impegnate, ha aggiunto Mazzoncini, in un gigantesco piano industriale e anche alla fusione, aggiungo io, con ANAS. Sull'ipotesi che possa intervenire lo Stato, non tanto il prestito ponte, quello insomma dura 6 mesi e l'Europa ha già fatto capire che non dovrebbero esserci grossi problemi, ma l'ipotesi che lo Stato entri in maniera stabile nell'azionariato, ha dato la sua opinione nettamente contraria il presidente Confindustria Vincenzo Boccia. Oggi a margine della prima assemblea di Elettricità Futura ascoltiamo la microfono della nostra Alessandra Schepisi. Noi siamo molto timidi su queste operazioni perché creerebbero dei precedenti in cui, quando c'è una questione emergenziale aziendale, poi entra sempre un terzo e ce la si prende, come dire, con il governo. Occorre invece fare tesoro di quello che è accaduto, non evidentemente abusare della questione referendum, perché il referendum, pur essendo un atto nobile, in momenti delicati può portare appunto a situazioni di imbarazzo come questo. Occorre costruire una dimensione di futuro per le aziende. E tra l'altro occorre chiedersi se le rappresentanze sindacali, a partire da noi, anche politiche, sono dei portavoce o da rappresentanti e interpreti del futuro delle società. Quindi io ripartirei dal punto, come dire, d'inizio, e cioè dall'esito referendario, per capire però cosa e come si può fare per non buttare l'acqua al bambino, tanto per capirci. Ma questo non significa di poter, come dire, sollecitare il governo a intervenire, altrimenti facciamo un errore e torniamo ai peggiori anni della nostra vita. E appunto Boccia ha parlato a margine della prima assemblea di Elettricità Futura che fonde Asso Elettrica e Asso Rinnovabili in una nuova associazione, e quindi entreranno in Confindustria oltre 600 imprese in più, visto che Asso Rinnovabili, che riunisce le imprese che operano nel settore delle rinnovabili, non era esterna al sistema di Confindustria. E il neopresidente è appunto Simone Mori. Ultima notizia prima di andare, diciamo, sulla classifica: il ponte del 1° maggio, la diamo sempre come notizia, ogni volta che ci sono dei ponti saranno 7.200.000 i viaggiatori che utilizzeranno il ponte del 1° maggio, praticamente il 12% degli italiani. Il 93% di questi resterà in Italia, un giro d'affari sui 2 miliardi di euro. Le destinazioni preferite saranno il mare, 41% della domanda, le località d'arte 27%, montagna 12%, laghi 5%, terme 1,3%. Ebbene, quindi chi riesce ad andare a utilizzare il ponte, e noi invece dal ponte in maniera pindarica passiamo alla classifica, che anche oggi rischia di rovinare il weekend a chi è in ascolto. La classifica della settimana. Dicevo in apertura che è una classifica che a me è un po' deprime oggi, più di altre volte, alcune volte non riesce anche a sorridere, perché c'era un film, non mi ricordo di chi, Alle volte ritornano, cioè alle volte i temi che speravamo almeno fossero usciti dal malcostume tornano in maniera prepotente, e parto subito al 5° posto con la regione Genova. Non se ne abbia il presidente il governatore Giovanni Totti, però abbiamo raccontato per anni dell'inutilità del fatto che le regioni italiane facessero politica estera da sole, delle missioni le più disparate in paesi in cui la regione X si confrontava con la Cina. In realtà erano in molti casi anche ottime occasioni per fare una merenda a costo del contribuente, merenda lunga, a costo del contribuente pubblico, portandoci di tutto. E abbiamo criticato molte volte anche questa andare in ordine sparso a Bruxelles. Nessuno mette in discussione che Bruxelles sia importante, ma se ogni regione, e noi abbiamo raccontato anche delle regioni Lombardia, regione Emilia-Romagna, delle loro sedi a Shanghai tanti anni fa, ma se ogni regione si mette ad aprire il suo ufficio a Bruxelles, io mi chiedo qual è il sistema paese che viene proiettato. E infatti abbiamo criticato molte volte questo: piuttosto abbiate un unico sportello, volete che la conferenza delle regioni abbia un suo sportello, va bene, distribuito da tutti i cittadini. E poi c'è il governo nazionale, c'è la nostra rappresentanza a Bruxelles, cioè, insomma, potrebbe immaginare un'altra soluzione? No, non c'entra, non cambia nulla. Perché lo dico? Perché il governatore della regione Liguria, Totti, Giovanni Totti, ha annunciato in maniera anche pomposa che dal prossimo 3 maggio tornerà un ufficio regionale in Rue du Trône 62, più o meno si pronuncia così, pronto a sostenere le battaglie della regione Liguria all'interno dell'Unione Europea. La Liguria aveva una sede abborracciata che funzionava poco e male, con le stesse risorse adesso è pronta una sede fissa per la regione, fondamentale, così come è utile e strategica quella di Roma. A Roma e a Bruxelles si decidono le sorti delle nostre imprese. Per il porto di Genova, per le nostre infrastrutture, andremo a battere cassa a Bruxelles. Avere una sede che sia un punto di riferimento è fondamentale. Secondo me sarebbe più fondamentale che uno lavorasse con il governo nazionale e ci si battesse tutti assieme per quello che riguarda il porto di Genova, piuttosto che il sistema portuale italiano, ma non la singola regione. Comunque, l'assessore regionale allo sviluppo economico Edoardo Rixi sottolinea che la Liguria si sta distinguendo come regione virtuosa nell'intercettare i fondi europei che servono a sviluppare la nostra economia e a progetti che vadano incontro ai bisogni reali di cittadini e territorio. Vogliamo continuare su questa strada e avere una sempre maggiore voce in capitolo sulla progettazione delle linee di finanziamento europeo. Polemica invece l'opposizione che dice che lo spostamento della sede implicherebbe costi maggiori rispetto al passato, ma a parte che Toti dice dopo 10 anni di isolamento riapriamo una sede come si deve dalla regione Liguria a Bruxelles, una sede c'era già, non è una sede come si deve, per carità. Ma io vorrei capire una cosa, lo dico col massimo rispetto al governatore Toti e all'assessore regionale allo sviluppo economico Rixi. Come si fa a dire che la regione è virtuosa nell'intercettare i fondi europei quando a noi risulta, e abbiamo la classifica, l'abbiamo letta la settimana scorsa, delle regioni, quello che Borghi alla gabbia non voleva capire, cioè di tutti i soldi che ci dà l'Europa siamo il secondo paese dopo la Polonia che riceve soldi, in totale sono 42,7 miliardi che sommati al cofinanziamento nazionale diventano 73 miliardi e ne intercettiamo pochissimi. Tra l'altro chi intercetta di più sono Val d'Aosta, Lombardia e mentre le regioni che ne avrebbero bisogno, Abruzzo, Campania, Lazio, Sicilia, 0 su 0. Pensate che solo in Sicilia valgono 4 miliardi e mezzo i vari fondi europei di sviluppo regionale, piuttosto che il Fondo Sociale Europeo, piuttosto che il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Ora, la Liguria a noi risulta che intercetti sostanzialmente per i fondi per lo sviluppo regionale. Il budget di 392 milioni di euro ad oggi è stato speso solo per l'1,6%. I progetti selezionati per quello che riguarda la regione Liguria arrivano a circa 46 milioni, cioè l'11,7%. Allora io chiedo una cosa. Come si fa a dire che la Liguria si sta distinguendo come regione virtuosa nell'intercettare i fondi europei? O i dati sono sballati o di virtuoso non vedo nulla. Ma soprattutto invece che ampliare una sede della regione Liguria a Bruxelles, non si potrebbe trovare qualcuno di bravo che sa come si, è vero che i bandi spesso sono complicati, ma insomma altri paesi ci riescono, no? E li intercettano tutti. Faccio l'esempio della Polonia che intercetta tutti i bandi. Allora dico, non si potrebbe prendere qualcuno per fare in modo che i bandi vengano beccati e soprattutto i soldi vengano utilizzati prima di aprire la sede a Bruxelles? O aprire una sede più, come ha detto Toti, una sede Toti come si deve, una sede come si deve. Capirai, adesso a Bruxelles tutti tremano. Vabbè, andiamo al quarto posto, però lo faccio dopo il meteo e la pubblicità. Pongo una domanda, una volta c'erano quelle battute che si facevano da ragazzini, qual è il massimo per un tribunale? Dopo il meteo e la pubblicità, la risposta. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova, pantera.it, col TH. Vi presenta Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barigioni. Sì, alcuni di voi hanno azzeccato la risposta. Qual è il massimo per un tribunale? Essere fuori legge. Siamo a questi casi. Essere abusivo nel caso specifico. Qualcuno mi ha scritto subire un esproprio. Allora, qui c'è un tribunale della Repubblica Italiana costruito, inaugurato 5 anni fa. Il costo poi sarà anche alto, adesso vi spiego perché, che sostanzialmente, essendo stato costruito su un terreno abusivo, o meglio, costruito in maniera abusiva, rischia, tra le varie possibilità, anche di essere abbattuto. Non sto scherzando. Perché c'è stato un'ordinanza shock, stiamo parlando di Gela. Gela vanta, chi la conosce, insomma, io lo dico con massimo rispetto per gli abitanti di Gela, ma insomma, l'abusivismo è una delle capitali italiane dell'abusivismo edilizio. Che cosa succede? Nel 2007 la giunta comunale, guidata da quello che adesso è il governatore della Sicilia, Rosario Crocetta, individua un'area per costruire il nuovo tribunale. L'area è vicino alla raffineria dell'Eni e l'area è di proprietà delle famiglie Calafiore e Sciascia, molto note in città. E va bene. Il comune avvia un primo esproprio, riconoscendo un indennizzo ai privati, che però subito lo contestano. Ricorrono al TAR e vincono in primo e secondo grado, perché si scopre che le procedure di esproprio fatte dall'amministrazione sarebbero illegittime. Il pasticcio però aumenta, lievita, perché poco dopo il Consiglio di Giustizia Amministrativa stabilisce che i privati devono avere un risarcimento, nomina un commissario. A sua volta il commissario, attraverso la perizia di un consulente, stima in 7 milioni di euro la cifra del risarcimento da dare alle famiglie Calafiore e Sciascia, 3 milioni e mezzo per il valore del terreno e altri 3 milioni e mezzo per il danno subito da un'occupazione illegittima. I privati però non demordono e chiedono indietro il terreno. Evidentemente deve avere un valore pazzesco questo terreno, perché 7 milioni non mi sembra poca roba. Comunque, lunedì scorso allora i giudici amministrativi da un lato invitano a ridurre la quantificazione del risarcimento e dall'altro però indicano tre strade: o un accordo, che a questo punto però appare impossibile, che è da 2007 che litigano, o un nuovo esproprio che avrebbe comunque dei costi almeno 3 milioni, soldi che il Comune di Gela non ha, oppure, ecco la terza possibilità, il commissario, leggo testualmente, il commissario ad acta dovrebbe porre in essere l'attività esecutiva materiale, ossia la demolizione del Palazzo di Giustizia in danno delle amministrazioni intimate, ma con onore di anticipazione delle spese a carico dei ricorrenti. Quindi entro il 2017 o trovano un accordo, difficilissimo, o c'è un nuovo esproprio, oppure i Calafiore e gli Sciascia rientrano in possesso dei terreni e abbattono il Palazzo di Giustizia e poi si fanno pure risarcire le spese al Comune. Ora, perché il Palazzo della Legalità è costruito su un'area abusivamente occupata, cioè abusivo perché secondo i due privati che hanno fatto ricorso al TAR e il giudizio appunto del Consiglio di Giustizia Amministrativa è stato costruito abusivamente. Io non ci posso credere. Voi immaginate l'abbattimento di un palazzo di giustizia abusivo, ma una notizia che farà il giro del mondo se avviene. A Gela, poi, a Gela, la patria, una delle patrie italiane dell'abusivismo edilizio, ma uno va a Gela e si rende conto di cos'è. Però il problema è il palazzo di giustizia, certo, tutto il resto è tutto all'interno del piano regolatore. Comunque, è un paese bellissimo questo. Andiamo al terzo posto e qui ci spostiamo a Roma. Perché abbiamo parlato spesso del tema dei rifiuti a Roma, ma anche del tema dei rifiuti in questo paese, dove alcune parti del paese si rifiutano di accettare l'idea che esista al mondo la possibilità di avere i rifiuti non in discarica, ma nei termovalorizzatori che producono energia elettrica. E dico, arriveranno tumori, come se tutti quelli che hanno un termovalorizzatore vicino, mi riferisco per esempio a Brescia, fossero dei pazzi, ma vale anche per il resto d'Europa. Gli unici è chiaro che sotto c'è anche un interesse fortissimo in tutto il giro d'affari, tra l'altro è entrato pure in parte in Mafia Capitale sulle discariche romane, non prendiamoci in giro, anche perché i paesi che usano i rifiuti per produrre energia elettrica sono paesi abbastanza civili, sicuramente più civili di certe regioni o aree del nostro centro-sud, che si oppongono in maniera strenua a qualunque cosa, perché poi secondo me dietro ci sono anche, anzi ci sono interessi, punto e basta. Allora, la BBC, nel dedicare un bellissimo servizio a Roma, lo dico con il cuore in mano invece, perché ogni volta che vedo l'Italia in generale presa in giro e denigrata a partire dalla capitale, sto male da italiano, che tifo ancora Italia, fa un servizio in cui parte l'inquadratura dal Campo dei Fiori in mezzo a cartacce, scorze, bottiglie, cibo, gli immancabili topi, cassonetti rovesciate, cumuli di schifezze, vabbè. E racconta il problema di Roma, dice tra l'altro una delle città più belle del mondo, questo posto è un problema di rifiuti, è difficile da credere, ma questo posto è Roma, una delle città più belle del mondo, ha un problema enorme che si chiama monnezza, aggiungo io, c'è un problema di rifiuti. Ma la cosa che la BBC scopre, tra virgolette, perché non lo scopre, ma fa notare, è che ogni anno Roma spende 14 milioni di euro per mandare in Austria 138 pagando 138 euro a tonnellata, oltre ai costi del viaggio, per cui appunto si arriva a 14 milioni di euro, manda i suoi rifiuti, circa 700 tonnellate alla settimana, sono 3 treni alla settimana. Dov'è che li manda? Li manda in Austria a Zwentendorf, spero di pronunciarlo correttamente. Quindi in tutto fanno 100.000 tonnellate di rifiuti all'anno. Ripeto, ogni settimana partono 3 treni, ognuno con 700 tonnellate. E noi siamo, o meglio, i romani sono doppiamente mazziati o doppiamente cornuti. Da un lato perché tirano fuori 14 milioni di euro l'anno per dargli all'Austria. E in secondo luogo perché sapete cosa fanno questi pazzi degli austriaci, sconsiderati, mica come i romani o altre regioni. Ripeto, purtroppo i termovalorizzatori sono, c'è un'opposizione anche in altre regioni del sud. Sapete cosa fanno gli austriaci? Prendono i rifiuti dei romani, li portano, li inceneriscono e li trasformano in quello che si chiama hot flue gas, cioè gas di combustione caldo, che a sua volta genera vapore che viene trasferito in una vicina stazione dove è convertito fornendo energia elettrica a 170.000 abitazioni della bassa Austria. Che io, se fossi in questi 170.000 famiglie austriache, io metterei la bandiera della Roma o della Lazio fuori dalla finestra. Ma ti rendi conto? Cioè, paghiamo i romani, ma poi in realtà i soldi non sono solo dei romani, pagano 14 milioni di euro e all'Austria. E gli austriaci prendono questi rifiuti, li trasformano appunto in vapore e poi danno energia elettrica a 170.000 abitazioni della bassa Austria, dove naturalmente non fa freddo e non c'è bisogno di energia elettrica. Quindi voglio dire, che cosa vogliono di più gli austriaci? Continuiamo così. Altro che lontano da Roma, come erano, dicevano quei... Così, lascio stare gli epiteti dei sudtirolesi indipendentisti, degli altoatesini indipendentisti. Qui è vicino a Roma, sempre più vicino a Roma. Ma volete mettere avere Roma vicino? Cosa significa per Vienna? Andiamo al secondo posto della classifica, ma dopo il traffico. Focus Economia. Sette 48 minuti, qualcuno mi scrive: guardi che comune di Roma paga poco al chilo per i rifiuti. No, guardi che secondo me non deve pagare nulla, cioè è assurdo che il comune di Roma mandi 100.000 tonnellate di rifiuti via treno, 3 treni a settimana, devo rileggere però, 3 treni a settimana per 700 tonnellate di rifiuti a settimana, pagando 14 milioni e gli austriaci ci facciano elettricità attraverso vapore. Se non ricordo male c'era un progetto a Roma di termovalorizzatore dalle parti, ma non vorrei, non era fuori grotta, adesso cercherò di recuperare il dato. Ci fu l'opposizione totale, e non solo a Roma, perché si disse questo crea tumori, cancro, è una cosa terribile per chi ci abita vicino. Non si capisce perché negli altri paesi non la pensino così, ma siamo più bravi noi, va bene, siamo più bravi noi, meglio vedere i gabbiani a Roma, no, dico, che vengono dalle discariche, non è che sono i gabbiani, il gabbiano Livingston, ma che... Al secondo posto mettiamo non i ferrovieri italiani, per carità, però diciamo gli ex ferrovieri. Allora, qui c'è una cosa molto strana. Da un accordo firmato dall'allora segretario della CGIL per le Ferrovie dello Stato, che si chiamava Mauro Moretti, si chiama ancora Mauro Moretti, è stato poi il numero uno delle FS e poi... adesso lo è di Leonardo, ex Finmeccanica. 27 anni fa vi fu un contratto firmato appunto da Mauro Moretti come rappresentante della CGIL che permette viaggi gratis per la grande famiglia dei ferrovieri, ormai considerati un diritto acquisito. Io dico, va bene tutto, però allora, siccome se tu non hai biglietto prendi una multa da 50 fino a 200 euro, come si può tollerare che siano mezzo milione di persone circa quelle che viaggiano gratis su intercity, interregionali, treni locali e anche sui Frecciarossa devono pagare 15 euro come diritto d'ingresso? Però vale per qualunque tratta del Frecciarossa, quindi se tu prendi un Torino-Napoli o un Milano-Salerno sempre 15 euro paghi. Allora, io dico, va bene se si tratta di welfare aziendale e quindi ci sono 70.000 ferrovieri di ogni ordine e grado, di tutte le società del gruppo, dai macchinisti ai manager, dai capistazioni ai controllori, dagli ingegneri e dirigenti della rete RFI, che non pagano. Non pagano nemmeno le mogli e i figli fino al compimento del 25° anno di età. Pure lì, vabbè. Ok, e sono altre 130.000 persone, e quindi siamo arrivati a 200.000 persone. Ma fin qui uno dice, ok, è un welfare interno, va bene. Io quello che non capisco, scusatemi, ma perché non pagano anche gli ex ferrovieri, quindi in pensione, più le mogli, gli eventuali figli, sempre fino ai 25esimo anno di età, che fanno un totale di altri 150.000 ex ferrovieri più 150.000 parenti di ferrovieri, 300.000 persone. Ripeto, capisco tutto, ma un ex ferroviere, un pensionato INPS, assomiglia a un vitalizio per il ferroviere non pagare mai la tratta. Cioè, io l'ex ferroviere non capisco. Tra l'altro c'è una cosa singolare: se l'ex ferroviere, se il pensionato va a lavorare per un concorrente, per esempio Italo o NTV Italia, perde il diritto ai biglietti gratis. Perfetto. Perché si dice sei concorrente alle ferrovie dello Stato. Ma allora perché il diritto ce l'hanno anche i dipendenti di RFI che non sono le FS? Cioè RFI è quella che gestisce i binari e deve permettere uguale possibilità d'accesso ai binari sia a FS che a NTV che a un eventuale terzo o quarto o quinto operatore. Quindi non c'entra con le FS, però loro hanno i biglietti gratis. Se il pensionato va a lavorare da un'altra parte, per un concorrente no. Ma comunque chiedo, si può tollerare nel 2017 che 300.000, 150.000 pensionati e 150.000 tra mogli e figli non paghino mai biglietto se non per un obolo simbolico di 15 euro solo in quanto ex dipendenti? Ma nulla, nulla, nulla, proprio nulla può scalzare il primo posto di questa settimana. Purtroppo alle volte ritornano anche in questo caso, alle volte ritornano le regioni anche in questo caso. Andiamo sul primo posto. And the winner is, lo dico con la massima rassegnazione, la regione Sicilia. Questa volta di nuovo il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, che si chiama così perché hanno il loro parlamento, hanno la loro corte, tutto. Si chiama Ardizzone, l'abbiamo anche intervistato, Giovanni Ardizzone, abbiamo fatto una litigata in due occasioni sui privilegi, sui vitalizi e quant'altro. E Ardizzone allora litigò con il sottoscritto perché riteneva incostituzionale tutto l'atteggiamento populistico sulla riduzione, sul contributo di solidarietà. Che cosa è successo? La Regione Sicilia con la finanziaria 2014 ha recepito la norma prevista dal loro governo Monti, che prevedeva per gli assegni vitalizi, non sono pensioni, superiori a 50.000 euro l'anno, un prelievo che andava dal 5 al 18% della pensione. Allora, la regione recepisce la norma, non aveva vincoli di utilizzo delle somme, quella della norma di Monti era vincolata al fatto che queste somme andassero poi a rimpinguare le casse previdenziali, però nonostante dal fondo pensione della regione garantiscano che i 6 milioni tanto è valso per fare questo prelievo, i 6 milioni sono stati utilizzati per le pensioni, che quindi la ratio della norma statale è stata rispettata, la Corte dei Conti siciliana ha deciso, su ricorso di diversi pensionati regionali che chiaramente percepiscono più di 50.000 euro l'anno, perché si applica assegni superiori a 50.000 euro l'anno come vitalizio, non sono pensionati, è vitalizio. Comunque, ha detto no, la regione dovrà ritornare questi soldi. E fin qui già ti girano le scatole, perché sono pensionati d'oro di Palazzo d'Orléans, tornano a sperare. Ma la cosa interessante, se mi date una cosa solenne, riesco a leggere la dichiarazione di Ardizzone, che abbassatemi l'altra base. Ecco il commento del presidente Ardizzone. È il risultato, la sentenza della Corte dei Conti, di quando si parla alla pancia della gente, di quando si fanno norme spot senza tenere come riferimento principale esclusivamente le leggi. Così è fin troppo facile alimentare l'antipolitica. Quando ho difeso l'autonomia del Parlamento siciliano restando assolutamente isolato e diventando bersaglio anche a livello nazionale, l'ho fatto perché il mio unico faro è stato ed è la Costituzione della Repubblica Italiana, alla quale tutti i politici, giornalisti e showman dobbiamo sottostare. E poi continua Ardizzone: la nostra forza deriva dalla conoscenza delle leggi. Difendendo l'Assemblea regionale siciliana quando c'era la rincorsa a chi voleva tagliare di più, ho difeso la Costituzione. L'ordinanza del giudice, spero possa essere da monito e a cominciare domani mattina quando ritorneremo in aula per procedere all'approvazione del bilancio. E non mi aspetto neanche le scuse di tutti quelli che dai giornalisti e dalle TV mi hanno additato come lo strenuo difensore della casta, soprattutto per non aver voluto estendere quella norma al personale dell'Assemblea regionale. Bravo Ardizzone, che non l'hai estesa. Ma almeno abbiano per il futuro il buon senso di tacere se non conoscono le leggi. Ardizzone, io sto zitto perché non voglio la querela, ok? È l'unico motivo per cui sto zitto, abbiamo già litigato in onda con lei, per cui è un delirio quello che leggo, però non voglio la querela, quindi delirio in senso artistico. Le faccio solo notare, Ardizzone, che lei avrà anche bloccato di estendere la norma al personale dell'Assemblea regionale, ma le faccio notare che la Sicilia, come vitalizi agli ex consiglieri, la Sicilia che non trova i soldi per i disabili gravi, a cui serve assistenza 24 ore al giorno, si vergogni invece che ricordare la Costituzione e il fatto che lei è un faro, ma che è uno dei padri costituenti, Einaudi Ardizzone. Ebbene, la Regione Sicilia spende 18 milioni di euro l'anno per vitalizi a ex consiglieri regionali. Dopodiché, lei ha ragione, ha fatto bene, difende la Costituzione, la metteremo tra i padri, non della Costituzione, ma tra gli strenui difensori della Costituzione. Bravo Ardizzone. E festeggiano chiaramente tutti quelli a cui hanno fatto il prelievo, che adesso si vedranno ritornare 6 milioni di euro per sopra i 50.000. Una regione che, capito, è ridotta dal punto di vista delle casse, lasciamo stare. Comunque, cosa volete che vi dica? Andiamo su GR24 e poi il caso virtuoso. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Focus Economia. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, alcune precisazioni. L'ipotesi del termovalorizzatore, giustamente mi scrivono Malagrotta. Qualcuno, sì, ho detto di Moretti come presidente, ex presidente di Finmeccanica, Leonardo Finmeccanica. Altri mi scrivono sui pensionati dell'FS hanno beneficio perché lo hanno ottenuto nei rinnovi di contratti aziendali. Ho capito, ma infatti non stavo parlando di chi lavora per l'FS, ma di tutti quelli che non fanno più parte, sono pensionati dell'FS e anche di RFI. Comunque, prendo atto che per alcuni è assolutamente normale avere 300.000 persone tra pensionati e loro familiari che viaggiano gratis in Italia, praticamente anche sui Frecciarossa. Va bene così. Luca Concone, amministratore delegato di Easy Life, buonasera. Buonasera. Cos'è Easy Life, quando è nata e chi vi ha aiutato? Allora, Easy Life è nata un paio d'anni fa in Inghilterra, poi però ha fatto quasi tutto il lavoro in Italia. Sostanzialmente è un servizio fatto per tutte le persone fra 40 e 60 anni che hanno responsabilità tipicamente verso l'alto, zii, nonni, genitori, e verso il basso, figli che stanno crescendo e che sono sempre più difficili da capire. Quando è nata, mi scusi perché l'ho persa? Un paio d'anni fa. E che cosa offre Easy Life, per farlo capire a tutti? Sì, noi siamo un'infrastruttura. Sostanzialmente il nostro cliente è la persona fra 40 e 60 anni, che tipicamente ha anche un lavoro, qualcosa da fare tutto il santo giorno, ed è preoccupato di come stanno i genitori o come stanno i figli. Quindi dal proprio telefono può sempre essere aggiornato, sia verso il genitore sia verso i figli, della situazione, ma in modo proattivo, perché la gente ha un lavoro normale, il telefono ce l'ha in tasca, non è che continua a guardarlo. E quindi è un'applicazione su web, ho capito bene, no? Sì, è un po' più sofisticato di così, in realtà è un server in Irlanda al quale sono collegati sia i telefoni dei nostri clienti, sia quelli dei genitori appunto e dei figli. E in particolare per i genitori noi gli diamo anche un pulsante di emergenza che sostanzialmente avverte in modo automatico in caso di caduta o nel caso che la persona si senta male. per cui io sono tranquillo che sono emigrato a Torino, mia mamma è rimasta a Salerno, ma io so che se mia madre cade o si sente male o si allontana o una serie di altri temi, io sono immediatamente avvisato e sono avvisato dovunque sia. Perché non è che mia madre cade per forza in casa, può anche cadere mentre va dal panettiere o fa un giretto ai giardinetti. Sì, nella speranza appunto che non cada, però ho capito benissimo l'obiettivo. Quanti siete come dipendenti e chi vi ha aiutato finanziariamente? Allora, siamo in 14 tra Italia e estero, di cui però 11 in Italia, e poi noi siamo presenti anche in Francia, Germania e Inghilterra. Chi ci ha aiutato? Abbiamo fatto un paio di round di finanziamento sostanzialmente con imprenditori e supporter di vario tipo da venture capital, e poi ci ha aiutato Banca Intesa con un finanziamento. Questo è stato un anno e mezzo di sviluppo qua, non è una cosina che fanno due ragazzini in un garage come startup. No, ma oddio, l'importante è che poi due ragazzini in un garage non restino nel garage. Fermo restando che da noi, come la battuta l'abbiamo già fatta altre volte, da noi avrebbero sequestrato il garage in quanto luogo abusivo. Le foto di Steve Jobs e Steve Wozniak in garage le abbiamo presenti tutti. Esatto. Quindi si è cominciato bene in garage. Senta, quindi voi siete in 14, di cui 11 a Milano, e contratti però, quindi quando è che inizierete a fatturare? Ma allora, noi abbiamo lanciato letteralmente settimana scorsa. Mm-hmm. Abbiamo fatto un evento stampa e abbiamo lanciato poi il giorno dopo in Inghilterra, oggi in Francia, perché io sono in Francia, e martedì prossimo in Germania. Tecnicamente parlando stiamo già fatturando. Con che obiettivo per l'anno in corso? L'anno in corso, tra tutte e quattro le nazioni, visto che siamo partiti sostanzialmente a metà anno, vorremmo superare i 300.000 user per arrivare a 1 milione l'anno prossimo. Questo è importante perché la nostra è un'infrastruttura, dicevo, non è un'app, per cui se sua mamma ha un monitor del diabete e mia mamma ne ha una dell'epilessia, noi possiamo integrare tutto in questa infrastruttura, per cui lei è informata del zucchero di sua madre e se va in attacco diabetico sopra o sotto viene allertato dov'è e quando è accaduto, nonché il suo medico e tutti quanti gli altri. In realtà quando tu crei un'infrastruttura ci puoi montare sopra qualsiasi cosa. Sì, noi abbiamo messo chi vuoi, diciamo. Puoi collegare chi vuoi, la nostra è una piattaforma aperta e accogliamo veramente chiunque. Chiunque abbia intenzione di sviluppare o senior o junior. Quanti anni ha lei, Concone? 50. E prima cosa faceva? Io sono una delle persone che ha fatto Vola Gratis, Bravo Fly, Last Minute, prima ancora Buongiorno Vitaminic. E prima ancora ero un partner della McKinsey in finanza, quindi un altro universo. Diciamo una vita per le start-up, mettiamola così. Sì, allora, anni non sono molti. No, senta, 11 dipendenti sono assunti, sono collaboratori? Come no, c'è un po' di tutto, da assunzioni, stage, e partite IVA e poi contratti a microsocietà per lavorare per noi. Allora, in bocca al lupo a lei, a tutti i dipendenti, nella speranza che vi allarghiate e che riusciate ad arrivare appunto al milione di clienti quest'anno. Grazie anche a Luca Concone, appunto amministratore delegato di Easy Life. La borsa oggi poco, FTSE MIB invariato 0,06, così come invariate Parigi, invariata Francoforte, meno 0,40 Londra, meno 0,12 in questo momento Dow Jones. Bene oggi a Piazza Affari soprattutto di nuovo ST Microelectronics, come già ieri più 3,60, Mediobanca più 3,90, Biperbanca più 3,20, Unipol più 2,5 come Case New Holland, Ferragamo più 1,70, Prismian più 1,40, Finecobank più 1%, male però in maniera contenuta, Uxnet a Porte meno 1,80, Saipem meno 1,5, Campari meno 1,30, Leonardo meno 1%, Recordati meno 1%. Su Mediobanca c'è un report positivo di Morgan Stanley, le banche risentono un po' anche tardivamente delle indicazioni di ieri di Mario Draghi, e poi su Unipol e Biper, insomma Unipol in particolare, dichiarazione di Cimbri che non ha escluso di salire in Biper oltre il 5% rispetto al oltre il 5% che attualmente ha in Biper. Adesso andiamo sul traffico che poi ci attende l'uccellaccio. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Ultima parte di Focus Economia e, come annunciato, parliamo della settimana di politica economica di carattere internazionale, perché è stata una settimana molto intensa, non solo perché adesso fra poco più di una settimana vi sarà il ballottaggio francese, chiaramente domenica 7 maggio, con molte incertezze, ma ne parleremo, ma anche perché oggi, quanto a cronaca vera e propria, già lo ricordavamo in apertura, abbiamo avuto dei dati abbastanza contrastanti sul fronte della crescita economica, nel senso che gli Stati Uniti, nonostante il boom della borsa da quando è stato eletto Trump, nonostante la fiducia degli americani, hanno visto un primo trimestre rallentare in maniera anche abbastanza sensibile allo 0,7% come crescita economica, è ai minimi da 3 anni a questa parte. E tra l'altro la spesa dei consumatori americani è scesa come incremento, ha avuto l'incremento più basso dal 2009, più 0,3%. Pensate che nel trimestre precedente, l'ultimo del 2016, crebbero i consumi americani del 3,5%, il dato peggiore dal 2009. Sul fronte europeo invece, da un lato si nota un rallentamento sia del PIL britannico, e qui la spiegazione è l'avvio della transizione del paese verso la Brexit, è l'aumento del PIL britannico più modesto dal primo trimestre del 2016, più 0,3%, anche qui l'ultimo trimestre del 2016 aveva segnato un più 0,7%, ma è rallentata la crescita dell'economia anche in Francia, più 0,3% nel primo trimestre contro uno 0,5 del trimestre precedente. C'era un'attesa per almeno uno 0,4%. Stabile invece l'inflazione all'1,4% in Francia. Mi sembra che, alla luce di questi elementi e anche appunto delle primarie del PD, ma soprattutto di quelle che sono state che è stato il primo turno elettorale francese, si possa chiamare dall'alto, evocare dall'alto il nostro uccellaccio. E allora buonasera al professor Giulio Sapelli, economista, editorialista e insegna storia dell'economia all'Università Statale di Milano. Buonasera Sapelli. Buonasera carissimo Sebastiano. Dunque, so che lei vola sempre molto alto, però da dove partiamo nell'elenco che ho appena fatto? Partiamo da Trump, se lei è d'accordo, poi veniamo all'Europa, quindi facciamo un volo atlantico. L'economia a sorpresa rallenta negli Stati Uniti, mentre Trump ha presentato una riforma fiscale che è molto significativa come impatto sulle imprese: dal 35 al 15% scenderebbero le tasse, condono per 2.600 miliardi di profitti realizzati all'estero, solo tre aliquote per i contribuenti, si basa sulla curva di Laffer, ossia il fatto che se paghi meno tasse l'economia parte, diciamo, cresce di più, e quindi quello che perdi come introito fiscale lo riai dalla finestra perché l'economia cresce a un livello più alto. Curva di Laffer mai dimostrata, poi se non ricordo male, da un punto di vista statistico e scientifico, c'è il rischio di un'esplosione del deficit americano oltre il 10%, si calcola che questa misura farà imbarcare 2 punti e mezzo di deficit solo per l'anno in corso. Intanto lei ci crede alla curva di Laffer? No, io non ci credo alla curva di Laffer, perché credo alla vecchia scuola della scienza della finanza di origine tedesca, insomma, la grande scuola di Wagner e gli altri, dove quello che conta quando si vuole crescere l'economia non è tanto la fissazione del reddito, perché se tu tassi molto i profitti e il reddito, che sono due cose diverse, hai delle cose e delle conseguenze diverse. Mi spiego: abbassare le tasse sulle imprese è positivo per la crescita, se poi queste imprese ciò che risparmiano giù le tasse lo reinvestono. Se tu invece abbassi solo le tasse dei profitti, dei redditi, la curva di Laffer non spiega nulla, è un pezzo della cosiddetta supply side economy che dice che tutta la crescita viene soprattutto dalla capacità di spesa. Naturalmente io appartengo a quella scuola economica che comincia da Riccardo e finisce con Schumpeter, che dice che quello che fa crescere sono gli investimenti. E allora, se questo abbassamento delle tasse sulle imprese, non so se le imprese, cioè perché l'Italia, una delle cose per cui l'Italia non cresce, perché è un'impresa piccola e media, non le grandi che hanno degli enormi divisioni per l'erosione fiscale, che è quasi vicino all'evasione, quella che io chiamo l'evasione di legge, no? E uno dei grandi limiti della nostra struttura economica ormai fatta di piccole e medie è che sono troppo tassate. E questa riforma di Trump, secondo me, esprime la disperazione americana, perché la situazione in America è molto deteriorata dal punto di vista delle infrastrutture, dal punto di vista della distribuzione del reddito, perché si crea sempre meno ricchezza che viene dall'industria. E quindi Trump cerca disperatamente di fare quello che ha promesso, cioè di ridare lavoro agli americani e ridare profitti capitalistici al posto di rendite finanziarie e di economia dello spreco e dello sperpero, come l'economia finanziaria. Quindi un gioco di luce e di ombre, e bisognerà vedere se, e questa è la posizione giusta che hanno anche i democratici americani, dice: bene, se tu detassi le imprese è una cosa, se tu però detassi i ricchi effetti non ne avrai. E quindi, diciamo, meglio la riduzione della tassazione sulla impresa che non sui profitti, non sul reddito, capisci? Certo, questo è il problema. Ecco, venendo invece spostandoci sulla parte europea, mentre in America comunque il dibattito è sulle misure di carattere economico, mi sembra invece che il dibattito francese, qui vengo alla Francia, si sia concentrato su altro, permanenza o meno nell'euro, che però non è un tema di politica economica, è un tema così di politica pura. No. Certo. E flussi migratori. Ecco, mi sembra che, per carità, Macron ha forse più anche dalla Le Pen un pacchetto di misure di carattere economico, vuole ridurre il peso del pubblico impiego in Francia, non è una cosa facile, ma non trova anche lei che sia un po' scomparso il tema economico in una Francia che appunto anche lei oggi scopre di crescere meno del previsto nei primi trimestri? Non c'è dubbio, questo è il grande errore che ha fatto Macron. Innanzitutto Macron non può non fare questo errore, perché come lei, basta che lei e i nostri ascoltatori vadano sul sito di Macron, En Marche, e vedono che Macron non esiste, cioè è un sito rispetto al quale il sito di Grillo sembra l'Enciclopedia Britannica, no? Non c'è un'idea, non c'è un progetto, ci sono delle foto di lui con la sua signora, che può essere una cosa utile. E quindi l'unico che ha messo le questioni economiche, come lei sa benissimo, è Mélenchon, che ha le vecchie posizioni, che sono un mix tra le vecchie posizioni neoproduzioniste di Chevènement, no? Il grande socialista gollista, diciamo, no? E poi ci sono delle posizioni classiche, il reddito di cittadinanza, eccetera. Però ha ragione. E in questo sono caduti nella trappola della Le Pen, no? Perché sono caduti dove non dovevano cadere, dovevano affrontare l'immigrazione a partire dall'economia, non viceversa. E qui invece loro arrivano all'immigrazione senza essere passati per l'economia, dovevano dimostrare che le posizioni che ha anche la Le Pen sono deboli dal punto di vista economico. Questo è il vero problema. Ma visto che però Macron ha vinto sulla classe media dei grandi centri urbani, medio-alta, mentre Le Pen ha conquistato la maggioranza tra gli operai e nelle zone, diciamo, anche più difficili della Francia, i dati sono abbastanza incontrovertibili. Lei comunque è convinto che ce la farà Macron per via? No, io penso, vorrei sbagliarmi, come ero convinto che... Infatti nel mio libro Un Mondo Nuovo, scritto ben prima, ho messo 2 anni ben prima che apparisse Trump, io ero convinto che la Clinton avrebbe perso. E perché se guardi la carta geografica e sai poi il sistema elettorale americano, certo, la Clinton ha preso 2 milioni di voti in più di Trump, però il sistema dei grandi elettori la sfavoriva, perché erano più favorevoli alle classi medie e ai posti poveri. Io personalmente penso che vincerà la Le Pen, su questo non ho nessun dubbio. Ci deve essere un cambiamento radicale, deve succedere qualcosa di traumatico. Una cosa che a me ha sorpreso però, Sapelli, è che la Le Pen è contro l'euro, contro l'Europa, per il referendum, e va bene. Ma Macron, insomma, non ha mai, almeno da quello che ho letto io, non ha mai detto siamo per restare nell'euro, siamo per restare nell'Europa, no, ma con una diverso tipo di Europa, e quindi diciamo andiamo a ridiscutere Maastricht, Fiscal Compact, clausole di salvaguardia. Ascolti Barisoni, mi ascolti bene, sa che io le voglio bene, voglio bene tutti. Macron non esiste. Non si può in sei mesi, non si può a 39 anni improvvisamente, perché sei una creatura di Attali che rappresenta un circolo di potere franco-cinese molto preciso, quello dell'economia circolare, che è quello degli illuminati, immaginare. Macron non sa nulla, non esiste, è una figura mediatica e non dico altro, e quindi Macron non può dire nulla. L'unico che aveva delle idee su questa cosa, come lei sa bene, è Hamon. Hamon aveva delle idee sull'Europa, molto, ma oggi non conta più quello che sai, ma quello che dimostri di essere. Sì, ho capito, però uno poteva immaginare, per concludere, Sapelli, che Macron si impegnasse a dire vabbè, no, stiamo in Europa, ma non ci piace questa Europa, c'è una posizione, se vogliamo, più renziana, cioè non al referendum, non... Perché il blocco di potere a cui appartiene Macron è molto diverso da quello di Renzi. È un blocco di potere che, secondo me, ha affidato le sorti della Francia all'egemonia tedesca. E quindi Perché in prospettiva italiana, allora, è ovvio che insomma, chi è favorevole a permanere nell'euro e a restare in Europa modificando i trattati, cosa si può, quindi penso al PD che va alle primarie appunto nel fine domenica. Si poteva augurare una vittoria non della Le Pen, perché questo avrebbe avvantaggiato invece la parte più leghista, salviniana e anche forse grillina, ma una vittoria dell'altro fronte, però un fronte disposto e disponibile a rimettere in discussione questa Europa solo dell'austerità e questa Europa solo delle regole da Fiscal Compact. Ma mi sembra che questo sia non sia emerso nella campagna di Macron, cioè non capisco, no, non mi sembra, no, che anche se dovesse vincere Macron non darebbe perché, nessuna spalla all'Italia, questo voglio perché dire. Perché quelli che hanno creato in sei mesi En Marche, cioè questa macchina di un partito che non esiste, non hanno interesse a sollevare questi temi, perché hanno in mente una sistemazione dell'Europa dove la Francia è proiettata ormai in una posizione secondaria in Europa, perché pensano che la Francia abbia un destino africano, neoimperiale, e che quindi i soldi si faranno lì dove li fa già Bolloré, dove li ha fatto per anni l'ELF quando esisteva, dove li farà la Total. È tutto un mondo, è un gioco di specchi quello della campagna elettorale francese. Però per concludere, Sapelli, vuol dire che a casa nostra, al di là di come andranno le primarie del PD, insomma, noi siamo meglio di loro, noi siamo molto meglio. Sì, no, ma non vi sarà nemmeno sto giro un asse Parigi-Roma per diciamo portare a miti consigli la Germania? Ma i francesi non vogliono fare nessun ladio con l'Italia. Scusi, la Libia, il caso Regeni, e tutte le cose, i fastidi che ci danno in Africa, la loro azione predatoria sull'industria e sulle banche italiane. Ma lei pensa che i francesi vogliono fare un asse sull'Italia? È dal tempo di De Pretis, dal 1882, che ci fanno la guerra nel Mediterraneo, dal tempo del Marocco. Eravamo arrivati noi prima in Marocco, mica loro, e ci hanno cacciato. E quindi Ma lei pensi che i francesi vogliono fare l'asse con noi? Quindi per concludere, Sapelli, questo in prospettiva vuol dire che non vi sarà nessuna modifica dell'approccio europeo? Perché se poi l'Italia... Certamente, perché l'approccio europeo si può modificare solo per disgregazione interna, per erosione. Ma non c'è nessuna alternativa all'egemonia tedesca. Vada via, voli via Sapelli, mi ha depresso a sufficienza, grazie, torni nei suoi lidi, nelle sue alte sfere, grazie anche al professor Giulio Sapelli che appunto insegna storia economica, nostro ospite spesso, venerdì come uccellaccio, che insegna storia economica all'Università Statale di Milano. E grazie anche a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi come sempre per l'assistenza in studio e in redazione, da Sebastiano Berisoni l'auguro di un buon fine settimana, soprattutto per chi dovrà passarlo lavorando, ci risentiamo la settimana prossima. Radio 24. Libera la voglia di fare.